sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Cosentino, la Camera dice no all'uso delle intercettazioni. Finiani votano con l'opposizione, ma la maggioranza regge. Arresti in Abruzzo per mazzette, non solo in manette, anche l'assessore alla sanità. Unicredit alle prese col dopo profumo. Le fondazioni, dice Bossi, ora ci difendano dai tedeschi. Sandra Mondaini nel pomeriggio, la Camera ardente negli studi di Mediaset. Ombre sul ruolo degli amici filippini. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura ancora il caso Cosentino, perché questa mattina c'è stato, come sapete, il voto sull'uso delle intercettazioni alla Camera. In diretta Elisabetta Fiorito. Sì, la maggioranza tiene sul caso Cosentino, l'opposizione cerca i franchi tiratori. Questo è in sostanza il risultato del voto di Montecitorio, che questa mattina ha negato l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni dell'ex sottosegretario all'economia. Assenti 37 deputati, Futuro e Libertà vota con l'opposizione, 308 voti favorevoli, 285 contrari. Sentiamo il capogruppo del PDL a Montecitorio, Fabrizio Cicchitto. Il voto era segreto e quindi, voglio dire, sono arrivati 18 voti in più di quello che aveva la maggioranza, che aveva anche degli assenti e delle persone in missioni, ma comunque la maggioranza era largamente presente, e questo mette in evidenza che da parte dei Finiani, a mio avviso, c'è stato un errore sia sul terreno della scelta di valore che sul terreno della scelta politica. Io spero che su questo aprano una riflessione. Risponde così Fabio Granata di Futuro Libertà, sentiamo. Certamente noi abbiamo avuto una forte indicazione politica a essere combatti, io credo che l'abbiamo mantenuta, sono convinto di questo. In totale nell'opposizione, nei gruppi PD, DV, DC, API e Future Libertà, i voti sarebbero stati 296, ma il voto segreto ha fatto sì che alcuni deputati abbiano votato con la maggioranza. A questo proposito Dario Franceschini annuncia: mancano i voti, conti non tornano, non sono certo del PD. Stesso parere di Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Dunque, la maggioranza ha retto questa mattina. Il commento di Stefano Folli al microfono di Alessandra Tedesco. Ha retto con una ferita, però, perché i Finiani si sono distaccati. Quindi da questo punto di vista bisogna poi valutare. Poi bisogna vedere quanti sono poi i voti di maggioranza e se la maggioranza senza i Finiani è poi realmente autonoma rispetto al voto di fiducia. Quindi sono due da calcolare. Oggi è stato un passaggio rilevante ma non determinante per il futuro della maggioranza. Che cosa ci si può aspettare per il voto di fine settembre a questo punto? Beh, lo scenario di fine settembre non è cambiato, rimane il fatto che i Finiani si aggiungeranno alla maggioranza nel voto di fiducia, ma che Berlusconi non li considera parte integrante della stessa maggioranza, e diciamo dal suo punto di vista ha anche ragione, però bisogna vedere se Berlusconi, al netto del gruppo di Fini, avrà una maggioranza autosufficiente. Al momento questo è tutto da verificare e i segnali sono abbastanza inquietanti, cioè lui per governare dovrà poi comunque affidarsi nel giorno per giorno a questo gruppo di Fini, che evidentemente, già diciamo, con Cosentino oggi, farà pesare parecchio il suo consenso quando deciderà di dare questo consenso. Si riaprirà secondo te una campagna acquisti da parte del PDL? Ma io penso che quello che è stato fatto fino adesso va nel senso di riuscire ad avere questi 316 voti al netto del gruppo di Fini. Questo sforzo continuerà fino al 28 settembre e allora vedremo se ci sono o no i voti, ma il problema politico di fondo non cambia, ed è che poi comunque la vita del governo sarà faticosa, sarà sofferta, sarà tormentata nel giorno per giorno, e penso che comunque sia il peso politico e parlamentare del gruppo di Fini continuerà a essere rilevante. Questo dunque è quanto accade nei palazzi romani. Si sperimentano invece maggioranze originali nei palazzi siciliani. Nino Amadore da Palermo. Sì, buongiorno a tutti. Lombardo, il presidente Lombardo ha presentato stamattina la nuova squadra di governo, una squadra formata grazie all'alleanza con il PD, con la PD Rutelli, con una parte dell'UDC e con Futuro e Libertà. Ma diciamo, per avere l'assegnazione definitiva delle deleghe però bisognerà aspettare ancora una settimana. Intanto stamattina la novità è che un paio degli assessori indicati da Lombardo non erano presenti e non si potranno insediare perché sono degli alti burocrati e stanno cercando di capire se è possibile, quali siano le incompatibilità con l'incarico di assessore. Altro fatto della mattinata è il dibattito politico che si tiene all'assemblea regionale, e anche lì Lombardo ha partecipato, è arrivato un po' in ritardo, ha avuto già stamattina come ieri sera uno scontro con l'opposizione, insomma un dibattito molto infuocato. Il nodo politico resta comunque al centro di tutto. Il governo di Lombardo intanto può contare sui voti dei partiti di cui dicevo, oltre al suo, il Movimento per l'Autonomia, di cui Lombardo è il fondatore, ma diciamo tutto però in questo momento è sulla carta, perché poi Lombardo sa già e Nino, sentiamo la voce di Lombardo. Io ho riscontrato questa solidarietà di UDC, MPA, Futuro e Libertà e Alleanza per l'Italia di Rutelli e del Partito Democratico, che poi questo diventi il terzo, il secondo, il primo polo, come dire, riguarda la politica romana, alla quale guardo con qualche sospetto. E ringraziamo Nino Amadore da Palermo. Ci trasferiamo invece in Abruzzo per gli arresti questa mattina per un giro di mazzette che ruotano intorno ad un inceneritore, ma non solo. E ci colleghiamo con Laura Bettini. Buongiorno. L'inchiesta che stamattina ha portato agli arresti domiciliari per corruzione, peculato e abuso d'ufficio l'assessore alla sanità della regione Abruzzo, Lanfranco Venturoni, riguarda, come dicevate da studio, la costruzione di un inceneritore, in particolare in provincia di Teramo. I fatti riguardano però il periodo in cui Venturoni era presidente di società che operano per l'appunto nel settore dei rifiuti. Ai domiciliari oggi è finito anche Rodolfo Valentino Di Zio, l'amministratore delegato della Deco, impresa che si occupa per l'appunto di smaltimento rifiuti. Nell'inchiesta della Procura di Pescara risultano poi indagati per corruzione due senatori del PDL, Paolo Tancredi e Fabrizio Di Stefano, ed anche il sindaco di Teramo, sempre PDL, Maurizio Brucchi. Indagata per favoreggiamento l'ex assessore rifiuti alla Protezione Civile della regione Daniela Stati, dimessa però già tempo fa dopo il suo coinvolgimento in un'altra inchiesta della Procura dell'Aquila sulla ricostruzione post terremoto. Non risulta coinvolto il presidente della regione Chiodi, che per ora non commenta questa vicenda se non per esprimere la sua solidarietà all'assessore Venturoni, ma l'opposizione è già sul piede di guerra. Venturoni è unanimemente considerato il braccio destro del presidente della regione, accusa il capogruppo dell'Italia dei Valori in consiglio regionale Carlo Costantini. Lo sentiamo. Chiodi deve assumere l'unica decisione conseguente possibile, deve dimettersi immediatamente da Presidente della Regione. Chiediamo anche a Chiodi di dimettersi immediatamente dalla carica di commissario alla ricostruzione e di commissario alla sanità. E per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie a Laura Bettini. Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, si è dimesso da vice commissario vicario alla ricostruzione post terremoto, le dimissioni in una lettera inviata al presidente Berlusconi. La decisione, spiega Cialente, è dettata dal fatto che in seguito alla nomina del nuovo vice commissario vedo, scrive Cialente, un preoccupante accentuarsi dello stato di confusione e difficoltà nella governance di gestione dell'emergenza e del processo di ricostruzione. E veniamo al caso Unicredit. Innanzitutto il fronte politico con le dichiarazioni di Umberto Bossi di questa mattina. Ce ne parla da Roma Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Interviene dunque su Unicredit, sulle dimissioni di Profumo, il mondo politico. Il commento più forte arriva dal leader della Lega. Quelle di Profumo, spiega Bossi, sono dimissioni al buio che di solito non si fanno. Ma ascoltiamo le parole di Bossi. Diciamo che l'unica cosa preoccupante è che hanno cambiato Profumo senza preparare prima le cose. Meglio non rischiare quando ci sono i soldi di mezzo. Uno sguardo passato quindi da Bossi al nuovo assetto di Unicredit. Avevo paura che la Germania potesse mettere le mani sulla banca, ma poi ho visto che non hanno i numeri. Il leader della Lega si rivolge comunque alle fondazioni. Spero, dice, non stiano con le mani in mano e organizzino una difesa. Altro baluardo saranno le banche territoriali, che a dire del ministro per le riforme riusciranno a fare una difesa adeguata. No comment dal ministro Tremonti sul caso Profumo, di grave perdita per l'economia italiana, parla dal PDL il sindaco di Roma Alemanno. Il governo chiarisca le dimissioni di Profumo, rilancia invece il Partito Democratico. Della vicenda Unicredit si parlerà comunque tra circa un'ora nel Comitato di Stabilità Finanziaria, alla presenza del ministro dell'Economia e del governatore della Banca d'Italia. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Migliette. Sul fronte finanziario, il vice amministratore delegato di Unicredit Roberto Nicastro così parla di Alessandro Profumo, del progetto di Banca Unica, ai microfoni dell'agenzia di stampa Radio Cor. Ha creato, e questa è una cosa importante, un gruppo che io credo è destinato a durare con successo per molti anni, perché Alessandro ha creato un qualcosa di che dura nel tempo, e questo, diciamo, ne dà il senso della grandezza. Il progetto Banca Unica prosegue con la massima velocità, accelerazione, è un progetto altamente strategico per il gruppo. E sentiamo come sta andando il titolo in borsa. Deborah Rosciani. Unicredit amplia le perdite a Piazza Affari. I titoli dell'istituto stanno accusando un ribasso di oltre il 3% all'indomani dell'uscita di scena di Profumo. Secondo gli analisti, a questo punto il mercato teme lo stallo ai vertici della società e quindi si apre una situazione di sostanziale incertezza, perché evidentemente il mercato aveva estremamente fiducia in questo manager. La borsa complessivamente oggi perde un punto. Vi segnalo solamente il top dell'euro sul dollaro da 5 mesi a questa parte. Le quotazioni sono vicine a quota 1,34. Piera. Grazie a Deborah Rosciani. Nel sondaggio di oggi vi chiedevamo se secondo voi i talk show televisivi garantiscano pluralità di informazione. Hanno prevalso i no con il 61%. Deputati e senatori tirano la cinghia, o meglio, provano a mettere un freno alle spese del Parlamento. Sentiamo come. Taglia di qua e lascia di là. Politica davvero bipartisan alle Camere. Se infatti da una parte deputati e senatori provano a frenare le spese dei due rami del Parlamento, dall'altra rimangono ancora molti privilegi. Anche i bilanci preventivi delle due Camere si differenziano. Montecitorio costerà allo Stato quasi 1 miliardo di euro, con un incremento dell'1,3% sull'anno scorso, ma con risparmi di 315 milioni di euro nel periodo 2006-2011. Più risparmioso Palazzo Madama. Non si prevede alcuna crescita della spesa per il secondo anno consecutivo, ma è previsto un taglio di 35 milioni di euro nel prossimo triennio. Per i tagli si va dall'innalzamento del limite anagrafico per la pensione al Senato alla rinuncia agli uffici personali dei deputati semplici alla Camera, che pesano l'1,8 mila euro al mese. Arriveranno presto anche gli effetti della sforbiciata di 1.000 euro dalla busta paga dei deputati, oltre ai tagli del 5% sulle retribuzioni dei dipendenti tra 90.000 e 150.000 euro e del 10% degli stipendi sopra i 150.000 euro. Respinta invece la proposta di eliminare la barberia interna di Palazzo Madama e l'adeguamento dei prezzi del bar della buvette del Senato a quelli del mercato. Il caffè è un piacere? Se non è economico, che piacere è? Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E computer game e intrattenimenti vari contro lo stress causato dalle interminabili sedute. Questa l'ha trovata per alleviare la difficile esistenza dei consiglieri comunali di Roma, che d'ora in poi potranno ricorrere all'uso di giochini elettronici tipo Tetris, il solitario, li conosciamo tutti, installati sui nuovi schermi high-tech negli scranni dell'aula Giulio Cesare, la sede appunto del consiglio comunale da poco restaurata. E fra le icone anche Skype, nel caso qualcuno avesse bisogno di farsi qualche telefonata gratis. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato del caso Cosentino, perché la Camera questa mattina ha votato no all'uso delle intercettazioni. Finiani hanno votato con l'opposizione, ma la maggioranza ha retto. Arresti in Abruzzo per mazzette, non solo, in manette anche l'assessore alla sanità. L'Unicredit alle prese con il dopo Profumo, le fondazioni, dice Bossi, ora ci difendano dai tedeschi. E ripartiamo invece in questa seconda parte di GR24 dalla morte ieri di Sandra Mondaini. Era un suo desiderio quello di andar via con discrezione, ma per permettere agli amici e al pubblico di salutare Sandra Mondaini verrà allestita una camera ardente negli studi televisivi di Mediaset a Cologno Monzese, proprio come successe solo 5 mesi fa per Raimondo. E come per lui, i funerali si terranno nella chiesa di Dio Padre di Milano 2 e saranno domani alle 11. E proprio per quella discrezione che aveva desiderato, stupiscono i risvolti familiari delle ultime ore. Virginia, nipote di Raimondo, dichiara: «Quando l'ho vista l'ultima volta mi ha detto voglio venire a stare con te a Roma, ma poi mi hanno impedito di vederla». Si riferisce ovviamente ai coniugi filippini che i Vianello consideravano famiglia e si dice avessero adottato. I nipoti dicono però che un atto ufficiale formale in questo senso non è mai stato fatto. Impossibile non pensare che tutto questo strida con l'immagine serena che ha accompagnato per anni la famiglia Vianello e sperare che non diventi una triste battaglia. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E andiamo all'estero. Nella notte italiana l'annuncio all'ONU, il segretario generale Ban Ki-moon ha quantificato in 40 miliardi di dollari lo stanziamento per migliorare le condizioni sanitarie delle donne e dei bambini nel mondo. Si concluderà stasera a New York, dopo 3 giorni di lavori, il vertice sulla povertà dell'Assemblea Generale. È respinta in America la richiesta di rinvio dell'esecuzione capitale di una disabile mentale. Il presidente dell'Iran, Mahmoud Ahmadinejad, l'ha definita ieri all'ONU la sacchinea americana, per cui le piazze occidentali però non protestano affatto. Teresa Lewis, 41 anni, morirà domani in un carcere della Virginia per iniezione letale. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha rigettato la sua richiesta di rinvio dell'esecuzione. Nel 2002 la donna aveva commissionato all'amante e a un complice l'omicidio del marito e del figliastro per incassare l'assicurazione sulla vita. I due esecutori materiali del delitto sono stati condannati all'ergastolo, lei a morte, nonostante il suo quoziente intellettivo sia, secondo la perizia psichiatrica, ai limiti dell'incapacità mentale. Per soli 2 punti il QI di Teresa Lewis supera la quota 70, il limite fissato dallo Stato della Virginia per distinguere tra handicap mentale e normalità e per decidere della vita o della morte di una persona. È la prima volta da oltre un secolo che la Virginia non condanna a morte una donna. Alice Cason, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia con la pagina economica. Protestano anche a Palermo gli operai della Fincantieri. Un corteo di 500 persone ha bloccato stamattina un tratto dell'autostrada. Sabato scorso la rivelazione del piano del gruppo leader mondiale nella costruzione di navi da crociera, che vedrebbe quasi 2.500 esuberi in Italia entro il 2014, a fronte di un incremento dei dipendenti negli Stati Uniti. Lunedì prossimo i sindacati incontreranno l'azienda. Il 1 ottobre manifestazione a Roma per farsi ricevere dal governo. Sentiamo il segretario nazionale della UILM, Mario Ghini. Chiediamo che il piano venga, se c'è questo piano venga bloccato, quindi che venga ritirato e che si cominci a fare un confronto serio col governo rispetto a un aiuto vero a questo settore. Di fatto il governo è padrone e proprietario anche dell'azienda, quindi il governo ci deve dire che intenzioni ha. Siccome ha sempre sostenuto nel passato che questo è considerato dal paese un settore strategico, noi ci auguriamo che dalle dichiarazioni si passi ai fatti. Noi chiediamo un intervento simile a quello che hanno fatto e stanno facendo gli altri paesi europei, quindi chiediamo che ci sia un immediato sblocco di tutta una serie di commesse pubbliche. Parlo della questione legata al rifacimento della flotta Tirrenia, ai carceri galleggianti e più interventi più strutturali. Negli Stati Uniti stiamo parlando di un mercato protetto. Per entrare nel mercato americano è necessario aprire la produzione là e quindi è ovvio che lì c'è una situazione in cui inevitabilmente non può che portare del lavoro in quello stabilimento. Noi ci auguriamo che i benefici economici da questa operazione negli Stati Uniti possano ripercuotersi anche sull'Italia. Le difficoltà economiche inducono le famiglie ad un uso moderato della carta di credito. Lo rileva l'8° osservatorio CRIF sulle carte di credito presentato stamattina a Milano. Deborah Rosciani ha sentito la curatrice del rapporto, Serena Di Mattia. Il numero di carte di credito e di debito in circolazione nel nostro paese al 2009 rimane sostanzialmente stabile, soprattutto per quanto riguarda le carte di credito, mentre le carte di debito diminuiscono leggermente. Di pari passo, diciamo, diminuisce anche il numero di carte di credito attive del circa 6%. Vi siete anche interrogati su che cosa c'è dietro a questo atteggiamento di prudenza nell'utilizzo della carta? Pesa ancora la crisi, dottoressa Di Mattia? Sicuramente in atto, diciamo, un processo di razionalizzazione sia innanzitutto da parte dei players del mercato italiano, ma anche da parte appunto dei consumatori, che hanno anche razionalizzato di molto il loro portafoglio carte. Stupisce anche il dato sulla diminuzione del valore medio delle transazioni effettuate dai sottoscrittori di carte e dalle famiglie. diminuisce in qualche modo l'importo medio speso, questo sì, ma in virtù del fatto che lo zoccolo duro, diciamo, che utilizza la carta, gli utilizzatori, diciamo, di sempre comunque sono sempre più familiari con questo strumento e quindi lo utilizzano più spesso e per spese, diciamo, anche di importo contenuto. 20 di ripresa. L'Italia che riparte. Nel 2009 abbiamo subito in pieno la crisi del mercato sia nazionale che internazionale, con un calo del fatturato del 20%. Salvatore Nicolazzo è responsabile amministrativo di Elata, un'azienda pugliese storica del calzaturiero, una piccola azienda, 38 dipendenti, 2 milioni di euro di fatturato. Una crisi nel 2009 e una ripresa nei primi mesi del 2010. Sì, nel 2010 abbiamo registrato un miglioramento delle condizioni sia in Italia ma soprattutto all'estero. Questo ci ha consentito di mettere già di chiudere i primi sei mesi con un incremento del 10% circa. Elata si è fatta forte di un miglioramento del servizio, ma è stata costretta anche a tagliare in parte i dipendenti. Soprattutto il servizio che offriamo ai clienti in ordine alla rapidità nelle consegne, alla certezza dei tempi di consegna, oltre al livello qualitativo che è sempre molto alto, perché abbiamo il controllo di tutte le fasi produttive che avvengono in Italia. E abbiamo dovuto procedere a riduzione di personale perché un calo del 20% non si assorbe così, e quindi per riportarli in linea abbiamo dovuto ridurre il personale, sì. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il capoluogo piemontese ospita da oggi a domenica la sesta edizione di Torino Spiritualità, tema di quest'anno gratis, il fascino delle nostre mani vuote. Antonella Parigi, direttore della rassegna, al microfono di Adriana Fracchia. Lo spirito è quello di esplorare questa parola spiritualità, che è una parola appunto un po' impegnativa, nelle sue diverse manifestazioni, che sono gli ambiti confessionali ma anche quelli laici e anche quegli ambiti che normalmente non vengono considerati sotto questo aspetto. Noi quest'anno parliamo di gratuità e ne parliamo per esempio considerandolo nell'ambito economico. La cosa che ci ha spinto a utilizzare il termine gratis, che gratis è la parola centrale di ogni promozione commerciale, no? E invece gratis è una parola che è al centro dell'eroismo dell'essere umano, di tutte le azioni che vanno al di là, come dire, del mero raggiungimento del proprio istinto di autoconservazione. È la cifra della grandezza dell'uomo, allora forse va ricordato. Congelato fino al 30 novembre lo sciopero dei calciatori per la Serie A stasera alle 20.45, primo turno infrasettimanale della stagione. Congelato lo sciopero, il campionato festeggia facendo le ore piccole col primo turno infrasettimanale. Tutti in campo alle 20.45, incroci pericolosi per le capolista. Il Cesena va a Catania, l'Inter ospita il Bari. Benitez lascia al riposo capitan Zanetti e risponde così al presidente del Palermo Zamparini, che dopo il KO coi nerazzurri di domenica aveva alluso al potere interista. Posso dire una cosa chiara, abbiamo fatto 17 tiri in porta e le tifosi del Palermo hanno avuto molto rispetto per noi. Per il Milan in cerca di equilibrio e continuità, la difficile trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, seconda in classifica. La Roma prova a uscire dal tunnel a Brescia, ma Ranieri deve fare a meno di Totti e De Rossi. L'altra big in crisi, la Fiorentina, va a Genova contro i rossoblù. Stuzzicanti, Cagliari, Sampdoria e Napoli-Chievo, mentre Bologna-Udinese e Lecce-Parma scioglieranno già qualche nodo in zona salvezza. Domani Juventus-Palermo, coi bianconeri alla prova del 9 dopo il bel blitz di Udine, e i rosanero che cercano punti per saldare la traballante panchina di Delio Rossi. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per il presidente della Federcalcio Giancarlo Abete, l'arresto dell'ex arbitro ecuadoriano Byron Moreno, come sapete per possesso di 6 kg di eroina, è la conferma a posteriori che la qualità di Moreno come soggetto garante non gli si attagliava in modo particolare. Ed era l'ultima notizia di questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.